Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La buona notizia riguarda l'asta, il BTP Day, quarto BTP Italia, detto anche, ribattezzato un titolo a 4 anni, indicizzato all'inflazione italiana, con scadenza appunto il 22 aprile 2017. E il tasso reale annuo minimo garantito è pari al 2,25%, il collocamento scade giovedì 18 aprile, salvo chiusura anticipata. Però ormai, meno di un'ora fa, erano vicine agli 8 miliardi le sottoscrizioni di BTP Italia. Tra l'altro per quest'anno vi sarà un'altra emissione a metà del 2013. Hanno raccolto nelle tre emissioni precedenti oltre 27 miliardi di euro, il record lo ricorderete forse dello scorso ottobre quando raccolsero 18 miliardi di euro, e sta andando bene il collocamento, non si è ancora chiuso, dovrebbe, le notizie dovrebbero arrivare verso le 5:30, 6, se abbiamo ben capito, ma comunque sta andando bene, questa è la buona notizia. La brutta notizia invece riguarda la cassa integrazione, ce ne occuperemo nella seconda ora del programma. Perché lo dico? Perché, come già avevamo anticipato anche noi modestamente, giugno rischia di essere un mese delicatissimo, non solo perché dovrebbe esserci l'aumento dell'IVA e l'IMU e anche la tassa sui rifiuti, nella speranza che non vi sia bisogno, quando arriverà un nuovo governo, di una manovra aggiuntiva, lo dico perché il ministro Grilli lo ha seccamente smentito, però da più parti sentiamo dire che forse bisogna fare una manovra correttiva. Il problema della cassa integrazione in deroga, che è quella istituita in via straordinaria per estendere le tutele della cassa integrazione anche a aziende e lavoratori che non ne avrebbero diritto, in particolare riguardo alle piccole imprese sotto i 15 dipendenti o quelle che hanno già superato la durata massima di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, oggi il ministro Fornero ha detto forse 1 miliardo non basta, dovremo trovare altre risorse, e riguarda 700.000 persone. È già arrivato l'allarme ieri del segretario della CGIL Susanna Camusso, la quale ha detto attenzione, le risorse stanno finendo e oltre 500.000 di persone possono restare senza cassa integrazione. Di questo ci occuperemo nella seconda ora del programma, dicevo. Parleremo invece anche della Saras, la società di raffinazione petrolifera della famiglia Moratti. Perché? Perché i russi di Rosneft sono entrati nel capitale di Saras con il 13,7% e hanno lanciato un'OPA a 1,37 euro per azione perché vogliono comprare il 7,30% del capitale ancora in circolazione. La famiglia Moratti cederà ai russi azioni per un totale di 178 milioni di euro. Il titolo è volato a Piazza Affari, è arrivato a guadagnare oltre il 10%, adesso però quota 1,041 euro, manca ancora 30 centesimi per arrivare all'offerta dei russi, più 6,71%, è ovviamente il miglior titolo oggi sulla borsa, e anche di questo parleremo nel corso del programma. Borsa che nel frattempo perde lo 0,90% su Milano, lo 0,70% su Parigi, lo 0,50% su Francoforte, lo 0,70% anche su Londra, euro a quota 1,3084, bene anche l'automatica più 2,2%, la popolare di Milano più 2,2%, male invece Fiat meno 4,40%, Telecom meno 3,40%, Buzzi Unici meno 3,1%, Tenaris e Mediaset meno 2,80%, Pirelli e Saipem, ma anche Exor meno 2,5% e anche Prismian, Diasorin meno 2,1%, Atlantia meno 1,90%. Parleremo in apertura anche dell'oro, perché l'oro è sceso ai minimi da 2 anni a questa parte, bisogna stare attenti perché non si capisce se sia una discesa dovuta a valutazioni sulla congiuntura o in realtà un'operazione di qualche soggetto importante che sta vendendo oro a mani basse. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. dicevo appunto l'oro sotto i 1400 dollari l'oncia, ha perso il 6%, è la quotazione più bassa dal marzo del 2011. Faccio notare che però nel frattempo poi l'oro aveva toccato record storici. Pesa il consiglio di Goldman Sachs agli investitori di vendere oro, anche perché ha messo a segno il rally, cioè il rialzo più forte e più lungo degli ultimi 90 anni. La crescita della Cina inferiore alle attese, per carità, siamo sempre a un più 7,7% del PIL, però sono 0,2 punti in meno. L'obiettivo del governo è un 7,5%, ma dicevo, la crescita della Cina inferiore alle attese ha fatto calare anche il prezzo del petrolio, oggi a 88,3 dollari al barile sul mercato di New York, è il livello più basso da 3 mesi a questa parte. Restiamo all'estero perché nel 2012 per la prima volta negli Stati Uniti si è registrato un calo delle spese militari, e questa dovrebbe essere una buona notizia. Si spiega il fenomeno sostanzialmente con i tagli operati ai budget destinati alla difesa dai paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti. Appunto, per la prima volta gli Stati Uniti sono scesi sotto la soglia del 40% delle spese militari mondiali, cioè fatto 100 quello che tutti spendono per armamenti, gli Stati Uniti avevano sempre avuto una quota superiore al 40%, invece sono scesi sotto il 40% e un meno 6%, lo segnala tra l'altro l'International Peace Research Institute di Stoccolma, che segnala come questo calo dovrebbe proseguire anche nel 2013. Continuano invece ad aumentare in maniera significativa la loro spesa per armamenti sia la Russia che la Cina. Mosca e Pechino hanno aumentato il loro budget per la difesa rispettivamente del 16% Mosca e dell'8% Pechino. In calo l'Italia, il nostro paese dà le spese militari il 2,3% in meno rispetto al 2011, 26,45 miliardi nel complesso. E veniamo un po' anche a chi paga i profitti, a chi non paga gli utili, cioè l'evasione. Sappiamo che, per carità, l'evasione va combattuta sempre. Continuiamo a dire che oltre che gli studi di settore bisognerebbe capire anche le grandi società, i grandi gruppi, quando di fatto eludono il pagamento delle tasse, perché con alchimie legali hanno sedi in altri posti. Faccio un esempio che obiettivamente grida vendetta. Starbucks, molti di voi la conoscono, era una celebre catena americana di caffetterie. Allora, è da 10 anni in Grecia, dove ha 36 punti vendita. Ora, in un paese in ginocchio, con tassi di disoccupazione giovanile al 60%, allora pensate che in 10 anni Starbucks non ha mai pagato un euro di tasse, e sì che fattura 244 milioni di euro in Grecia e ha un utile lordo di 174 milioni, quindi qualche decina di milioni avrebbe dovuto lasciarla in questi anni. Perché non paga le tasse pur avendo 36 punti vendita in Grecia? Perché attraverso una complicata rete di holding, di società di controllo, i profitti vengono spostati in paesi come Svizzera e Olanda, dove la tassazione sulle imprese è più bassa. In questo modo i punti vendita ellenici risultano ufficialmente in perdita, è chiaramente un gioco contabile, e pertanto non versano imposte. Allora, mentre il Wall Street Journal chiede alla rock star Mario Draghi di incidere una nuova canzone per l'Europa, dopo aver ricordato che è la prima celebrità tra i banchieri centrali e aver riconosciuto che Mario Draghi ha salvato l'euro con il programma di acquisto illimitato di titoli di Stato varato dalla Banca Centrale Europea, il programma OMT, ha scoraggiato, scrive Wall Street Journal, i mercati dallo scommettere contro la rottura dell'euro. Ma la trasmissione della politica monetaria non ha ripreso a funzionare, cioè le garanzie che Draghi ha dato all'euro e alle banche europee non si stanno tramutando in una maggiore liquidità da parte delle banche al sistema economico, cioè si ferma tutto quando arriva alle banche, possiamo dire in maniera un po' brutale, ma è così. E lo stesso Draghi, adesso lo ricorderemo, ha chiesto che invece poi gli aiuti che la BCE dà alle banche si tramutino poi in aiuti all'economia reale, se no, voglio dire, abbiamo salvato le banche e ci fermiamo lì. Però il Wall Street Journal dice che deve trovare un modo per aumentare questa catena cinghia di trasmissione della politica monetaria. È un enorme problema, infatti, per le piccole e medie imprese, che rappresentano il 98% delle aziende nell'area euro e il 75% dell'occupazione, e in genere non hanno alternative ai finanziamenti bancari. No, lo dico perché questo lo scrive il Wall Street Journal. Beh, sarebbe il caso che venisse capito anche da chi ci governa, o ci dovrebbe governare, a Roma e a Bruxelles, perché il tema, il fatto che il 98% delle imprese nell'area euro siano piccole e medie, ho capito che in Germania le hanno grosse e grandi, ma non è un buon motivo per dimenticarsi quella che è la struttura produttiva di questo paese, fatta di piccoli e medi imprenditori, medi e piccoli imprenditori. E dobbiamo farcelo spiegare dal Wall Street Journal che se non si butta un po' di liquidità per le piccole e medie aziende, tutta questa salvezza dell'euro si ferma a metà strada. Il Wall Street Journal continua citando uno studio di Goldman Sachs, ma dimmi tu se devo farmelo spiegare dagli americani, dimostrando come le piccole e medie imprese di Italia e Spagna pagano un tasso di interesse del 6% su un prestito di 1,5 milioni di euro tra 1 e 5 anni. Ebbene, le aziende concorrenti in Germania e Francia pagano circa il 3,5%. Vuol dire che un'impresa italiana deve competere sul mercato dei capitali, cioè quando ha bisogno di fare investimenti, di trovare soldi per gli investimenti, paga il 2,5% in più. Ora, ci rendiamo conto che significa mangiare buona parte dell'utile? No, alla faccia della concorrenza interna, perché poi siamo tutti con la stessa valuta, con l'euro, però poi c'è un piccolo imprenditore che va in banca in Germania e ha il 3,5% di tasso di interesse. Va in Italia e in Spagna, gli praticano almeno il 6%. Allora, un applauso al Wall Street Journal, perché, ripeto, bisogna farsi dire dagli americani cose che tutti i giorni raccontiamo. E magari speriamo che l'applauso arrivi anche in quelle aule un po' ovattate di Bruxelles. Ma... E appunto oggi Mario Draghi ha detto: le banche di alcuni paesi non prestano a tassi ragionevoli, la conseguenza per l'area euro è grave, è particolarmente sconcertante. Lo dice Mario Draghi, che le piccole e medie imprese soffrono più delle grandi, dato che i tre quarti dell'occupazione sono fatti da piccole e medie imprese. Ma vogliamo capirlo in sto cavolo di Europa e di area euro, che se chiudono i piccoli salta il modello produttivo di questo paese? Poi ci teniamo qualche grande impresa, magari in parte in Italia, in parte all'estero, e con quella però non andiamo da nessuna parte, su. Poi Draghi aggiunge anche che l'unica uscita è la competitività. Occorre fare tagli alla spesa mirati, che sono comunque da preferirsi all'aumento delle tasse. Su questo siamo tutti d'accordo. Adesso io non vorrei polemizzare troppo, però chiedo ai colleghi del Spiegel, settimanale tedesco, mai leggero con l'Italia. Qualcuno si ricorda la copertina del Spiegel degli anni 70? Con la pistola, era una Mauser, se non ricordo male, sopra un piatto di spaghetti, no? E poi la stessa cosa rifatta con la mafia, la copertina. Allora, io dico una cosa: per carità, noi abbiamo mille difetti come italiani, come spagnoli, e l'autocritica la facciamo ogni giorno, anche fra poco vi racconterò di altri sprechi dei nostri enti pubblici. Ma io chiedo al Der Spiegel che cosa ne pensa, visto che oggi ha titolato: basta piangere, basta lamentarsi della povertà crescente e dei suicidi. I suicidi nei paesi del sud Europa c'erano anche prima della crisi. I paesi del sud Europa nascondono le loro immense ricchezze al nord, di conseguenza è giusto che si salvino da soli. E cita il fatto che la ricchezza media delle famiglie italiane è di 173.000 euro, tre volte quella dei tedeschi, per cui sarebbe più sensato che i paesi in crisi riducessero i loro debiti con le proprie forze, aggredendo maggiormente la ricchezza dei loro cittadini, cioè immagino una patrimoniale, o facendo pagare tasse. Su questo siamo d'accordo tutti. Faccio notare che noi abbiamo una disoccupazione che è quasi tre volte quella tedesca, che appunto le nostre imprese, però un conto sono i risparmi messi da parte e un conto sono i fatturati, e via così, che i tassi praticati alle banche sono molto più alti. Però è giusto che se c'è cioè una ricchezza che è sfuggita al fisco venga tassata, ci mancherebbe. Poi suggerisce del spiegone patrimoniale? Va bene, vedremo cosa succederà in questo paese. La cosa che mi dà particolarmente fastidio, anche perché insomma, chi vi parla ha portato avanti la campagna Disperati Mai sui suicidi, è che il settimanale tedesco si permette di dire basta lamentarsi della povertà crescente e dei suicidi che c'erano anche prima della crisi. Allora, nessuno sta dicendo che i suicidi non ci fossero prima della crisi. Abbiamo cercato di capire quanto la crisi avesse inciso su un tasso di suicidi di imprenditori, e vorrei sapere che ne pensa Der Spiegel di un imprenditore di 65 anni che oggi si è tolto la vita nella sua azienda a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. L'uomo si è suicidato e ha lasciato un biglietto in cui si citano problemi economici all'origine del tragico gesto. Era titolare di un'azienda di prodotti chimici per il settore conciario. Allora, e non devo ritornare sui coniugi di Civitanova. Allora, saremo anche il paese che descrive Der Spiegel, ma mi può dare una risposta il settimanale tedesco, o è un'altra di queste frasi in cui, diciamo, tipo la pizza con la pistola fumante sopra, gli spaghetti con la pistola fumante sopra? No, chiedo, perché se vogliamo anche negare che la gestione tutta austerità e nessuno sviluppo abbia impoverito Grecia, Spagna e Italia in questi anni, abbia arricchito grazie al vantaggio che ne ha la Germania, che diventa il porto sicuro per i flussi di capitale e permette agli imprenditori tedeschi di avere prestiti a tassi di molto inferiori rispetto agli altri paesi concorrenti europei, se vogliamo negare che da questa crisi l'unico paese che si sta avvantaggiando, piaccia o non piaccia, è la Germania, che rischia di fagocitare e cannibalizzare interi sistemi produttivi, tra cui quello molto competitivo italiano che le ha sempre fatto concorrenza oltre che subfornitura, beh, allora vediamo due letture diverse. E mi verrebbe voglia anche di aggiungere qualcos'altro. Comunque, poi venite in vacanza in Italia, cercate anche di capirlo sto paese, no? E non solo di tornarvene sempre con un sacco di stereotipi inutili, ma che siamo tutti impazziti qua, che stiamo raccontando le difficoltà delle famiglie solo perché ci diverte piangere col mandolino in mano. Allora, dai, invece del mandolino continuiamo con le notizie, però proprio per dimostrare che noi l'autocritica la facciamo. E poi magari facciamo anche una bella puntata su quanto ci ha messo la Germania a unificarsi con la Germania dell'Est in quei 10 anni. Il deficit com'era, cari tedeschi? Nessuno però vi ha rotto le scatole sul deficit, non c'era ancora Maastricht, se no col cavolo che la facevate l'annessione a rispettare i parametri di Maastricht. No, lo dico perché anche fare i calcoli sui 1500 miliardi spesi per l'annessione. Comunque, visto che noi vogliamo essere virtuosi fuori, virtuosi dentro, ripartiamo anche questa settimana con la rubrica sugli sprechi della pubblica amministrazione. Abbassare tutte le gabbie, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, che più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, che più auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, che più. Allora, mentre c'è un ascoltatore che dice se lei perdesse un po' di tempo a leggere von Hayek la smetterebbe di dire e sostenere stupidaggini. Guardi che io von Hayek l'ho letto, probabilmente l'ho letto male, e sono d'accordo in molto poco con lui, con buona pace di Oscar Giannino, l'ho sempre detto, l'ho letto e non sono d'accordo, perché magari verifichi se l'ho letto, su, anch'io qualcosa ho letto nella vita, non sono assolutamente d'accordo, e mi sembra che comunque, al di là di come uno la pensi, Keynes, von Hayek, qua la situazione è chiara: l'unico continente in tutto il mondo che non si è ripreso dalla crisi del 2008, tutti si sono ripresi, la borsa americana ha i record storici, gli unici che si sono beccati la doppia recessione, come spiegava bene Luca Paolazzi venerdì, sono i paesi dell'area euro. Allora, se vogliamo continuare a dire che tutto va bene così, perfetto, continuiamo, sa, c'è sempre chi... C'era l'ultimo dei giapponesi, no? Una volta nella giungla. Vabbè, in notizie di casa nostra. Allora, mentre a Vicenza il vescovo manda una nota ai sacerdoti e chiede di consegnare alla diocesi gli oboli in eccesso, perché chiede che quanto raccolto dalle intenzioni di preghiera incida sul mantenimento non solo delle parrocchie direttamente interessate, ma dei preti dell'intera diocesi, anche perché ci sono difficoltà anche nella raccolta, compresi quelli che non hanno una sede parrocchiale o a cui manca la possibilità di ricevere offerte per questo tipo, perché sennò questi sacerdoti generalmente li richiedono alla curia. È un periodo di magra per tutti, quindi sostanzialmente l'invito del vescovo di Vicenza è alle varie diocesi: dividete poi quello che raccogliete, non è che ognuno che quello che raccoglie di più se lo tiene, dividetelo tra i vari preti della diocesi. Però devo tornare sugli ultimi giorni del governatore lombardo, ormai mitico governatore, ex governatore della regione Sicilia, perché è vero che il nuovo governatore Rosario Crocetta ha annunciato la fine dei grandi bluff, dei corsi di formazione pagati dai fondi europei dell'avviso 20, però Lombardo negli ultimi giorni prima di andarsene qualche regalino l'ha fatto, Oltre 280 milioni di euro buttati per finanziare i corsi con uno o due allievi. Allora, voi dite, i corsi di formazione servono, Però dipende per cosa fai, per cosa li formi queste persone. Allora, non so, tre corsi per... cioè 35 allievi per tre corsi per saldatori, che è un lavoro importante, lo stesso numero di corsi per maestri shiatsu. Ora vogliamo trasformare la Sicilia in un bellissimo posto con la spa, con lo shiatsu, magari è un progetto, però tra 35 saldatori formati e 35 maestri shiatsu, boh, o magari fate un po' shiatsu, un po' saldatori, non lo so se si possa fare. E ancora, appena tre i corsi per restauratore, che penso che in Sicilia sia importante, mentre 100 corsi per estetisti e parrucchieri. Ora, con tutto il bene che voglio ai parrucchieri, ci vado anch'io, e agli estetisti, ma un paese, una regione con una disoccupazione giovanile che viaggia al 50%, cioè non è che possiamo essere disoccupati ma con la permanente. Saremmo tutti disoccupati, però, capito, capello corto, la permanente, la mesh, ma che stiamo scherzando? Ancora, decine di corsi per massaggiatori ed esperti in body massage antistress, che serve al disoccupato, nel senso che uno che è disoccupato, un po' stressato, è giustamente gli fa un massaggio antistress, se non stai attento te lo fa lui il massaggio poi. E chiaramente pochissimi corsi per figure per formare artigiani e quindi per formare figure artigianali. Ancora, che cosa posso dire? La media non supera 10 studenti per corso. C'è anche un caso di un solo iscritto, ma pensa alla tristezza, mi ricorda il visitatore di quel museo in Sicilia, perché alle lezioni per operatore di agenzia turistica, che mi sembra importante perché la Sicilia dovrebbe puntare sul turismo, c'è un solo allievo. Sapete quanto è costato questo corso con un solo allievo? 112.000 euro. Facciamo prima assumerselo a una cifra modica per 4-5 anni, lui non si sentiva solo e aveva lavoro per 4-5 anni, perché con 112.000 euro, ma stiamo scherzando. 4 gli iscritti ai corsi per potatore di spazi verdi, 55.000 euro di budget, oppure per conduttore di aziende agricole, vabbè, 112.000 euro, questo ci sta già di più. 5 i corsisti alle lezioni per yacht designer, vabbè, bisogna avere i cantieri, e ripeto, la maggior parte dei corsi per estetisti, parrucchieri. Addirittura c'è un corso sulle regole del vivere civile pagato con i fondi dell'Unione Europea, ma adesso quella è una cosa che uno impara a casa con i genitori, no? Mi auguro, ma che fai corso sulle regole del vivere civile? Io vorrei sapere cosa hanno insegnato. E un altro sull'arte di apprendere l'inclusione. Ora, forse era un corso riservato ai disoccupati e ai cassa integrati di Termini Imerese, l'arte di apprendere l'inclusione. Non dico di che cosa l'inclusione, però in realtà immagino che sia l'inclusione sociale, però con quello che tira, con l'aria che tira, uno può anche capirla male. L'arte di apprendere l'inclusione, fatevi includere, mi hanno molto incluso in questo periodo, mi sento un po' incluso. Vabbè, chiudiamo con Bergamo, dove ci sono 3 auto da destinare al car sharing, 3 Panda Euro 5, a basso impatto ambientale. Sono chiuse da maggio nel parcheggio sotterraneo della provincia di Bergamo, maggio chiaramente 2012. Si attende che il comune predisponga i posti auto. La regione ha finanziato il progetto con 24.000 euro, altrettanto ha messo la provincia, siamo a 50.000 euro. Coprono il servizio per 24 mesi, ma la faccenda dei contorni paradossali. Perché dicono, Bergamo, devono ancora essere posizionate per ciascun posteggio le colonnine per ricaricare i veicoli elettrici. Peccato che le auto della provincia possano iniziare a circolare anche senza le colonnine, infatti vanno anche benzina, devono solo avere dei posteggi ben identificati dove i cittadini le possano trovare. Allora, governatore Crocetta, metta mano, noi ci fidiamo ai corsi pagati con i soldi europei, ma che possono essere, non è che siccome i soldi sono europei li buttiamo via, si poteva fare formazione seria in Sicilia, non le regole del vivere civile o l'arte di apprendere l'inclusione. Mi sembra una grande inclusione quella che è stata fatta, diciamo, dal governo lombardo. Per favore, smettetela di sprecare soldi per body massage percorsi per body massage antistress e per le regole del vivere civile, anche per l'assaggiatore di formaggio e per barman acrobatici. Io posso immaginare così un barman acrobatico, però ripeto, non si riescono a strutturare questi corsi puntando sul turismo, sulle imprese agricole, su quello che avete, sugli artigiani. Ma non buttate via 280 milioni di euro in questo modo. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. A proposito dell'arte dell'inclusione, che riguarda molti disoccupati e cassi integrati italiani, dopo il metodo e la pubblicità ci occuperemo di un tema delicatissimo, cioè i soldi che servono per continuare la cassa integrazione in deroga. Il ministro Fornero oggi ha lanciato un allarme, domani c'è un incontro con le parti sociali, perché dice 1 miliardo forse non basta, dovremmo trovare altre risorse. Sono 700.000 i lavoratori italiani, e che vuol dire a spanne 2,5 milioni di famiglie coinvolte, che hanno la cassa integrazione in deroga, rischiano di scadere, anzi finiranno i fondi prima dell'estate, va trovato almeno 1 miliardo. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo tra poco, ripeto, della cassa integrazione in deroga, però visto che ci avviciniamo a commentare la borsa in calo dell'1%, però c'è la vicenda Saras di cui ci occuperemo, l'offerta lanciata dai russi di Rosneft. Ma dicevo, la buona notizia di oggi riguarda anche l'emissione del quarto BTP Italia, un titolo a 4 anni indicizzato e il tasso minimo garantito è pari al 2,25%, quello reale. Il collocamento doveva scadere giovedì 18 aprile, la chiusura è anticipata a... dunque, vedo un'agenzia appena uscita. Ok, sfiorano i 9 miliardi le adesioni a BTP Italia in collocamento alle prime di questa mattina. Alle 17.30 esatte erano già stati raccolti 8 miliardi e 980 milioni di adesioni. Ricordo che i BTP Italia, lanciati per la prima volta a marzo 2012 per il pubblico normale, il retail, hanno raccolto in 3 emissioni precedenti 27 miliardi di euro, il record è dello scorso ottobre con richieste per 18 miliardi. E questa mattina a Salvadanaio è intervenuta Maria Cannata, che è direttore generale del debito pubblico italiano, a cui la nostra Deborah Rosciani ha chiesto innanzitutto se temesse ricadute, eravamo ancora in mattinata, sul rendimento del titolo del BTP Italia a causa dello stallo politico. In realtà era già molto tranquilla la Cannata. No, devo dire che il momento, anche sul mercato visto complessivamente, anche tenendo conto degli investitori internazionali, è tutto sommato abbastanza positivo, quindi io penso che questa sarà una transazione che andrà bene. Poi adesso scaramanticamente non vorrei sbilanciarmi su previsioni, ma l'avvio comunque sembra piuttosto buono. La novità di questa emissione è che il Tesoro potrebbe anche decidere la chiusura anticipata dell'emissione, mentre per le altre occasioni così non era stato. Perché questa scelta? Perché il successo veramente travolgente che abbiamo vissuto a ottobre, da un lato ci ha fatto sicuramente piacere, ma dall'altro ci ha sottolineato l'importanza di tenere un po' sotto controllo l'ammontare finale della transazione. E questo è tanto più vero per le emissioni di quest'anno, perché vanno a scadere nel 2017, che è un anno già abbastanza pesante come scadenze, già lo vediamo che si prospetta come un anno un pochettino impegnativo, quindi non è il caso di andare a gravare con un ammontare eccessivo di scadenze in quell'anno. Quindi quale ammontare di raccolta potreste decidere di chiudere l'operazione? Ma non, guardi, ancora non ci vogliamo prefiggere dei numeri, meglio di no, vediamo come evolve. Se dovessimo registrare un andamento analogo a quello dell'ottobre scorso, sicuramente chiuderemo in anticipo. Ecco, dottoressa Cannata, il Tesoro ha riaperto di recente delle scadenze che erano state limitate negli ultimi anni. Per esempio è stato riaperto qualche mese fa il BTP a 15 anni, la settimana scorsa il BOT a 3 mesi. Che tipo di lavoro state facendo per la rimodulazione della durata del debito italiano? Allora, sono due cose molto diverse. Noi abbiamo lanciato a gennaio un nuovo BTP 15 anni che abbiamo già riaperto due volte. E quindi sì, e questo va nella direzione dell'allungamento della vita media del debito che vogliamo nuovamente perseguire. Il fatto che non abbiamo fatto per tre mesi consecutivi il BOT a tre mesi non vuol dire che questo strumento, che è uno strumento squisitamente di tesoreria, di gestione della liquidità di breve termine, non lo dobbiamo usare mai. Ad aprile era opportuno emettere un po' di trimestrale e l'abbiamo fatto. Naturalmente lo facciamo con la massima flessibilità, solo se vediamo che è opportuno per assicurare un livello di liquidità costantemente alto, lo facciamo, altrimenti no. Sono due cose molto diverse. Senta, date le indicazioni che ci ha anche spiegato prima relativamente alla scelta di eventualmente chiudere in termini anticipati questa operazione di oggi, questo significa che nel corso dell'anno di emissioni di BTP Italia non ce ne saranno più? No, ce ne sarà sicuramente un'altra, abbiamo annunciato nelle nostre linee guida che quest'anno ne avremmo fatte due. Una è questa qui e l'altra sarà nella seconda parte dell'anno. Dell'anno, quindi non tre come lo scorso anno, ma in questo caso due operazioni. Sì. Dottoressa sì. Cannata, da settimane temiamo l'arrivo della scure di Moody's. Il Tesoro anche la teme? No, francamente non vedo motivi particolari per cui l'agenzia debba muoversi. Naturalmente quell'agenzia e tutte le altre tengono sotto osservazione la situazione politico-istituzionale, il fatto che siamo ancora dopo tanto tempo dalle elezioni un po' appesi è una cosa che loro monitorano con molta cura, ma non solo Moody's, tutte le agenzie. Devo dire che la cannata non l'ha cannata, scusatemi il terribile gioco di parole, perché è andato proprio come diceva il direttore generale del debito pubblico italiano, Maria Cannata. L'asta sta andando benissimo, già 9 miliardi raccolti, il che ci porta dritti dritti verso la borsa, ma dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Sette 49 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa, ma anche di oro. Meno 1% quasi, meno 0,96 Milano, anche se la notizia di oggi si chiama Saras, l'OPA lanciata dai russi di Rosneft sulla parte di flottante, la parte ancora quota in borsa. Vicino al livello di offerta, 1,41 euro sotto. So anch'io che Saras quotò a 6 euro, però tant'è, più 6,70% il titolo. L'altra notizia grossa è, e quindi chiedo ad Andrea Fontana di Radio Corri Sole 24 Ore di aspettare un secondo. Buonasera Andrea. Buonasera. Riguarda invece l'oro, che a Londra è per la prima volta da 2 anni sceso sotto i 1.400 dollari l'oncia. Un'oncia vale, si chiama oncia Troy, vale 31 grammi, 31,10 grammi per la precisione. Dottor Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets, che è leader in vari rapporti e investimenti anche sui CFD, quindi contratti per differenza. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, l'oro ha fatto meno 16% dall'inizio anno, di cui meno 11% nelle ultime due sedute. Qui ci sono circolate varie ipotesi, una vendita massiccia cinese, siamo ai minimi da marzo 2011. È vero che aveva beccato il rally più grosso degli ultimi 90 anni l'oro, come record storico, però Goldman Sachs ha tagliato le stime a 1.270 dollari per il 2014. George Soros ha una visione negativa e ha chiuso le sue posizioni sull'oro. Società Generale, anche UBS, caso analogo. Come mai questa voglia di vendere l'oro? Perché si guadagna? Perché ritenete che non andrà oltre il record? No, sostanzialmente quello che è accaduto è che il sentiment sui mercati è migliorato sensibilmente dopo la forte impennata che ha condotto l'oro verso i massimi storici a settembre del 2011. Rispetto a quella data il mercato sconta un certo miglioramento, e questo dovuto anche a delle azioni, in particolare quella della BCE dello scorso agosto, quando ha annunciato questo piano MT. Questo ha riportato un po' più di ottimismo sul mercato e quindi ha fatto sì che l'oro, che è considerato un asset rifugio nei momenti di panico sui mercati, in questo momento appunto cede terreno. C'è da precisare una cosa: in realtà il metallo prezioso nel corso degli ultimi mesi era rimasto comunque sostenuto non tanto per la situazione di rischio, ma a seguito di alcuni interventi delle banche centrali che, quando usano stampare soldi, stampare banconote, non fanno altro che alimentare la corsa dell'oro, perché gli operatori si aspettano che l'inflazione possa salire ulteriormente. Quindi questo fa sì che gli investitori si coprono contro il rischio di inflazione acquistando oro, e quindi è rimasto sostenuto. Ora che si è aperto invece lo scenario per una riduzione di quello che è il easing quantitativo, come viene chiamato appunto, quindi ora che la banca centrale più importante del mondo, la Federal Reserve, ha aperto, e anche il Giappone. Esattamente, anche il Giappone ha fatto sta facendo il processo opposto, però in Giappone non c'è il rischio di inflazione, perché il paese viene da una deflazione ormai che dura più di 10 anni, quindi anche 15. Sì, anche 15. Esatto, sì, in realtà siamo nell'arco, la deflazione in Giappone dura da un ventennio, però si sono intervallati momenti di crescita dei prezzi. No, quindi ho capito, lei dice: nel momento in cui la Federal Reserve ha questa operazione, il messaggio risulta chiaro ai possessori d'oro? Esattamente, quindi chi ancora si aspettava una corsa dei prezzi al consumo verso l'alto viene deluso, e quindi cede l'asset che ha in portafoglio. Perché l'oro, essendo un bene rifugio, uno va a comprarlo quando si aspetta l'inflazione, cioè che l'inflazione bruci quelli che sono poi i valori correnti. Esattamente, esattamente. Quindi, in una battuta, perché devo fare la borsa adesso, ma voi che livelli di prezzo vi attendete da qua a fine anno sull'oro? Beh, un target molto basso si colloca adesso sui 1.300 dollari l'oncia. Se dovessimo andare ancora sotto potremmo arrivare intorno all'area dei 1.160 dollari l'oncia, ma lì poi ci dovrebbe essere un sostanziale recupero a seguito anche di un ritorno delle tensioni sui mercati da qui ai prossimi mesi. Grazie a chi appunto fa il market strategist per IG Markets, Vincenzo Longo. Grazie a voi. E adesso, come dicevo, la borsa. C'è un ascoltatore che, sì, alcuni si dicono che quella del corso per l'inclusione è un colpo di genio, prendono in giro la regione Sicilia sotto la guida chiaramente di Lombardo. E poi c'è chi scrive: se l'Italia va a rotoli è perché, anche perché la radio della Confindustria è nelle mani della sinistra più becera. Io ho un'altra idea, se l'Italia va a rotoli è anche perché ci sono ascoltatori che scrivono questi messaggi. Comunque, a borsa, vai! Sì. Chiudete Radio 24, l'Italia riparte. Allora, nel frattempo, meno 0,96% Milano. Lasciamo stare Saras, che avrà un approfondimento apposito. Andrea Fontana, Popolare di Milano più 2,5, Automatica più 2,20, Mediobanca più 1,30, Mediolanum più 1,30, Monte dei Paschi più 1%. Ce la facciamo in un minuto a parlare di Fiat, che invece è il peggior titolo, meno 4,21. Andrea. Sì, per quanto riguarda Fiat, oggi è una combinazione di elementi, certamente i fattori macroeconomici che hanno deluso i mercati e che hanno penalizzato un po' tutte le società dei settori più legati al ciclo, hanno permesso il realizzo su Fiat dopo un più 6% la scorsa settimana, meno 4,2 oggi in un settore auto che ha perso il 2,2%, ma male sono andate anche Volkswagen e le società francesi dell'auto. Bravo Andrea, grazie, poi ti faccio respirare, nel senso che avremo più tempo per commentare la borsa, poi il caso Saras e infine il tema della cassa integrazione in deroga. Adesso c'è il GR, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso vado un attimo in un Colcoz e poi torno, anzi prendo informazioni dal Cominform e poi torno a condurre. GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, e dopo aver parlato dell'oro e di Fiat continuiamo con la borsa e quindi con Andrea Fontana di Radio Cori Sole 24 Ore. Andrea, di Fiat abbiamo detto, però faccio anche notare che se Sara se la migliore, tra poco ne parliamo, tra i peggiori c'è il gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Sul risparmio ha perso addirittura il 5,70% dopo il rosso da mezzo miliardo registrato nel 2012 e il via libera del Consiglio di Amministrazione ad un aumento di capitale da 400 milioni, che potrebbe risultare molto diluitivo, cioè se tu aumenti il capitale riduci il peso proporzionale della quota degli attuali azionisti. Andrea. Sì, certamente diciamo che i conti innanzitutto di RCS con una perdita superiore al mezzo miliardo, comprendente svalutazione per 435 milioni, sono stati alla base naturalmente della performance di borsa di oggi. Come ti ricordavi è stato un weekend decisivo perché è arrivato l'accordo con le banche sul rifinanziamento da quasi 600 milioni, per la precisione 575 milioni, e l'accordo di massima dei soci sulla ricapitalizzazione in due tranche. Una prima fino a 400 milioni, una seconda che potrà essere fino a 200 milioni. Chiaramente una mossa, un intervento, una ristrutturazione molto importante che chiamerà i soci a inserire mezzi freschi. L'amministratore delegato Pietro Scottiovane ha ricordato come l'adesione è già al 91% per quanto riguarda l'aumento di capitale, ma certamente è un'operazione particolarmente delicata. Sì. È naturale che il mercato faccia soffrire il titolo. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, Pirelli, oltre che per il rinvio del piano industriale, scende oggi anche perché la concorrente Continental ha diffuso i dati sulle vendite, no? Sì, diciamo che c'è più che altro una stima di ribasso per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno, prevista per quanto riguarda le vendite con una flessione tra l'1 e il 3%, in un contesto che ricordiamo quello dell'auto in generale, ma anche quello degli pneumatici nello specifico, che sta soffrendo particolarmente, soprattutto nelle prospettive sul resto dell'anno, dopo un 2012 invece abbastanza positivo. Chi invece oggi si è mossa bene? L'Automatica su notizie di mercato. Per quanto riguarda l'Automatica è arrivata la terza assegnazione di gestione delle lotterie in uno stato americano, questa volta è in New Jersey, e l'Automatica con la controllata locale, cioè G-Tech, e in consorzio con altri soggetti si è aggiudicata appunto la gestione lotterie fino al 2029. Ricordiamo l'Automatica già si era aggiudicata le lotterie dell'Illinois Illinois e dell'Indiana, quindi il mercato apprezza questa notizia perché si amplia naturalmente il giro d'affari e soprattutto l'impegno negli Stati Uniti. Ancora tra i titoli segnaliamo le banche, oggi insomma in qualche modo se la sono cavata, dico perché insomma Monte dei Paschi ha fatto più 1%, Intesa San Paolo meno 0,80%, Mediobanca più 1,40%, la Pop Milano è il miglior titolo più 2,54%, Generali invece meno 0,40%, UBI Banca meno 0,70%, e ancora tra i titoli che perdono Buzzi Unicem meno 3,40%, Telecom meno 3,20%, vabbè, qualche realizzo ci sta, Tenaris meno 3,20% e poi Mediaset meno 2,80%. Ci sono novità su Buzzi Unicem? No, non ci sono novità particolari. È chiaro che oggi, come tu hai ricordato, le banche si sono un attimino salvate dalla giornata storta dei mercati. Le società invece più legate al ciclo economico, è il caso appunto dei cementieri come Buzzi Unicem, sono stati penalizzati al pari di altri industriali, naturalmente come l'auto e come altri settori. Ancora tra i migliori e i peggiori, ci chiedono ascoltatore di Saipem, meno 1,95%, 21,6 per azione, di Asori meno 2,20%, Exor meno 2,40%, Prismian meno 2,60%. Il caso di giornata però, come dicevo, si chiama Saras, più 6,71%, lanciata un'offerta d'acquisto sulle azioni sul flottante di borsa, ossia i russi di Rosneft, che hanno annunciato di aver comprato il 13,7% del capitale di Saras, dando alla famiglia Moratti. Saras infatti è la società delle raffinerie della famiglia Moratti, un corrispettivo di 178 milioni e mezzo di euro. Però hanno lanciato un'OPA, un'offerta a 1,37 euro, sul 7,30% del capitale che è quotato in che è comprabile in borsa. Il titolo ha chiuso a 1,041 euro, con un più 6,71%, quindi c'è ancora margine. Nel salutare Andrea Fontana, invece, adesso ci occupiamo appunto di Saras. Continua lo shopping estero, I russi, tra l'altro, di Gazprom hanno anche avanzato un'offerta per il Fort Village, parlo sempre della Sardegna, ma in questo caso il turismo. In questo caso sono i russi di Rosneft, che sono già entrati nel capitale della Saras, e in questo modo la famiglia Moratti scende dall'attuale 62,4% al 50,02%, quindi continua a mantenere il controllo. E l'operazione avrà esecuzione a partire dal prossimo 23 aprile e in base all'accordo, se abbiamo ben capito, oltre alla nomina di un amministratore da parte dei soci di minoranza, uno dei membri del consiglio di amministrazione sarebbe tratto dalla lista presentata dai russi Rosneft. Il gruppo Saras, che ha un giro d'affari di 12 miliardi di euro l'anno e circa 2.200 dipendenti, ha chiuso il 2012 con 35 milioni di euro di perdite. Ricorderete il collocamento di Saras, perché fu scelta la parte più alta della forchetta possibile, 6 euro per azione, e si rivelò, lo dico con la massima trasparenza possibile, una fregatura per gli azionisti, perché da 6 euro a 1 euro, a meno di 1 euro, non bisogna essere un fine analista per capire che non è stato un buon investimento. Carlo Festa del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Carlo, prima spiegaci il perché di questo ingresso dei russi, qual è l'obiettivo finale, poi dopo il traffico parleremo anche delle ricadute per gli asset della famiglia Moratti, tra cui c'è anche l'Inter. Carlo. Ecco, sì, diciamo che questo accordo che è stato raggiunto oggi era, diciamo, previsto un po' dal mercato, visto che negli ultimi mesi, insomma, si stava discutendo parecchio, no, di queste trattative fra Rosneft e Gianmarco e Massimo Moratti. Ecco, un po' a sorpresa, perché si parlava più di una joint venture, no, che doveva essere stretta, invece è arrivato questo passaggio di azioni personali di Gianmarco e Massimo Moratti al gruppo Rosneft. Ecco, il 13,7%, un'altra quota del 7,3%, che verrà accumulata tramite un'offerta pubblica. Ecco. diciamo che il motivo di questo accordo è di tipo diciamo industriale, commerciale, e favorisce il gruppo russo in quanto permette ai russi di espandersi sul mercato diciamo occidentale. Era da tempo che il gruppo Rosne stava provando a stringere un accordo per espandersi in quest'area e ora c'è riuscito. Diciamo che la tipologia dell'accordo è simile a quella che è stata presentata un anno fa con l'accordo tra Lukoil e la famiglia genovese Garrone sulla ERG, e appunto è sempre all'interno di questa filosofia, di questa strategia dei gruppi russi che ormai sono dei colossi con necessità di espandersi appunto occidente, degli accordi di commerciali che poi permettono appunto di entrare su mercati redditizi, ecco. Il problema invece della famiglia Moratti in questi ultimi due anni è stato quello di riuscire a invertire la rotta, visto che i margini sulla raffinazione, soprattutto per gruppi diciamo non colossi come i russi, si andavano sempre più stringendo, tant'è vero che il bilancio 2012 dei Moratti si è chiuso in rosso, e quindi avevano bisogno di trovare un accordo che in qualche modo permettesse di stringere una partnership commerciale in modo da anche da entrare in altre aree. Sì, allora abbiamo la linea un po' disturbata, Carlo, dopo il traffico vorrei sapere invece cosa cambia per la famiglia Moratti. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Bresioni. Allora, Carlo Festa, cosa cambia con questi soldi per la famiglia Moratti, ma anche per l'Inter, visto che ce lo chiedono molti, immagino, interisti, forse anche qualche milanista? Allora, diciamo, spero adesso mi possiate sentire un po' meglio. Sì, sì. Allora, diciamo che sicuramente la famiglia Moratti ha cercato questo accordo appunto per superare questo problema, diciamo, del suo gruppo che, malgrado il fatturato molto alto, ha progressivamente avuto negli anni una marginalità sempre inferiore. Quindi in questo modo riesce a stringere un accordo commerciale e azionario con un colosso che probabilmente gli permetterà di entrare in nuove aree, nuovi mercati. Quindi insomma sarà forse diciamo, il modo, lo strumento per rilanciare il gruppo, insomma, ecco. Per l'Inter invece cosa cambia? Allora, appunto si va a livello di ipotesi sulla base delle indiscrezioni degli ultimi mesi. La famiglia Moratti ha dato un doppio incarico a diciamo consulenti a loro vicini, un incarico per trovare un socio per Saras e un incarico per trovare un socio per l'Inter. Ecco, la prima parte diciamo dell'incarico è stata assolta. Adesso manca appunto la seconda. Nei mesi scorsi era stato trovato un accordo con un socio cinese che doveva costruire anche lo stadio, poi questo accordo è tramontato per svariati motivi. Ora, secondo quanto risulti insomma da ambienti finanziari, si starebbe cercando di stringere un secondo accordo insomma anche sull'Inter, e si parla di eventuali soci sempre russi oppure di soci insomma di altri paesi emergenti. Sì. Ecco, quindi sicuramente diciamo questo accordo, come si è già visto anche per insomma altri accordi che hanno fatto altri gruppi insomma altri conglomerate nei paesi occidentali, insomma, può essere anche propedeutico forse a un futuro ingresso diciamo di un investitore russo nell'Inter. Non sarebbe la prima volta che un russo entra nel mondo del calcio europeo, pensiamo a Abramovic, ma non solo. Grazie a Carlo Festa. E invece dei vantaggi sicuramente che ne avrà la famiglia Moratti, oltre che gli azionisti che non hanno comprato a 6 euro però. Passiamo invece all'ultimo tema, il più delicato della giornata, ossia l'allarme lanciato sulla cassa integrazione in deroga, riguarda 700.000 lavoratori, quindi a spanne 2 milioni e mezzo di famiglie, di personalità, inclusa la famiglia. late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. I numeri di oggi non sono necessariamente i numeri, perché sta moltiplicandosi la domanda di cassa integrazione in deroga, perché non è che il 2012 uguale al 2013, purtroppo i primi mesi del 2013 hanno determinato un'ulteriore accelerazione della crisi e della difficoltà, e quello che avevamo tentato di dire al governo a dicembre: non prevedete una riduzione della spesa sulla cassa integrazione in deroga, perché ne avremo bisogno. In qualche regione siamo già arrivati all'esaurimento dei fondi, non è neanche detto che si arrivi a giugno. Quelle risorse bisogna trovarle non solo per proteggere il reddito di quei lavoratori, ma per evitare che ci sia un'ulteriore spirale di avvitamento sulla riduzione dei consumi e quindi un'ulteriore riduzione della base produttiva di questo paese. Così il segretario della CGIL Susanna Camusso. 700.000 lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in deroga, scusatemi, a rischio. La cassa integrazione in deroga, visto che ce lo chiedete, è sostanzialmente quella, quindi è la straordinaria, è quella che si applica a quelle aziende, lavoratori che non avrebbero ufficialmente diritto, e quindi le aziende sotto i 15 dipendenti, oppure le imprese che hanno già superato la durata massima della cassa integrazione ordinaria o straordinaria. L'assegno è pari all'80% della retribuzione, ma con tempi massimi. Il ministro Fornero oggi ha detto: 1 miliardo forse non basterà, se riuscisse a destinare al finanziamento della cassa integrazione 1 miliardo di euro potrei dirmi soddisfatta, anche se c'è il rischio che possa non essere ancora sufficiente. Professor Carlo Della Ringa, che ne ha eletto la Camera con il PD, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, adesso che è in Parlamento, appena avete capito chi eleggere come Presidente della Repubblica e magari chi eleggere come Presidente del Consiglio, quanto tempo avete prima di trovare le risorse per la cassa integrazione straordinaria? Attualmente in Parlamento non ci sono le cosiddette commissioni permanenti, però c'è una commissione speciale, di quella che sta esaminando il decreto legge sul pagamento dei debiti nei confronti delle imprese, quindi è impegnata su quel fronte e su altri minori, cioè tutti quei fronti che in qualche modo vengono demandati dal governo. Il governo ha bisogno di acquisire il parere del Parlamento, e quindi si è fatta una commissione ad hoc. Questa commissione ad hoc via via ha assunto nuovi compiti che il Parlamento ha affidato, quindi può anche benissimo che venga affidato a questa commissione il compito di interloquire col governo per affrontare questo problema della cassa integrazione, che ricordiamo è uno dei temi caldi, cioè uno di quei capitoli di spesa per cui si presume che non ci siano abbastanza risorse per tutto l'anno. Questo è solo un capitolo, poi ce ne sono degli altri. Ecco, lei che prima di venire eletto alla Camera era uno dei massimi esperti di previdenza e soprattutto anche di strumenti, in questo caso di welfare, che idea si è fatto? Perché il ministro Fornero dice: sarei contenta se trovassi 1 miliardo, ma può non bastare. Così, detta così, non è molto rassicurante, Della Ringa. Sì, in effetti, insomma, adesso una cifra, probabilmente ci vogliono soldi, perché il governo non è che lo abbia stabilito le risorse, le ha stabilite per 6 mesi, in questo modo, per il periodo per il quale si riteneva responsabile, poi dopo sarebbe dovuto venire un altro governo. Però era indubbio che la cassa integrazione in deroga serve per tutto l'anno, non solo per 6 mesi, quindi le risorse non ci sono attualmente e quindi vanno trovate. 1 miliardo, 1 miliardo 2, ma non si sa. Per adesso abbiamo i primi 3 mesi. Il terzo mese è stato di fortissimo aumento, ma era un po' patologico, perché nei primi 2 mesi le risorse non erano ancora arrivate. Quindi il terzo mese, marzo, è stato anche un mese in cui si sono soddisfatte richieste arretrate. Da 3 mesi capire quello che succederà negli altri 9, perché ne mancano 9, è un po' complicato. Quindi certamente ci vogliono delle risorse in più. Si pensava in un primo momento che magari 700 milioni potessero bastare. Adesso, con il peggioramento della situazione, si vanno queste cifre, ma sono cifre messe lì. Sapere come succederà nei prossimi 9 mesi, se ci fosse un minimo di ripresa verso la fine dell'anno, è chiaro che saranno mesi che si confrontano con analoghi mesi del 2012, che erano stati molto peggiori, perché ricordiamo la crisi ha avuto forte impatto a partire dall'estate scorsa. Quindi risorse in più vanno trovate, ma già dire che ci vuole 1 miliardo, 1 miliardo e 200 milioni, secondo me è prematuro. Può darsi che sia così, però bisognerebbe fare degli accertamenti. In ogni caso, guardarsi in giro per vedere quali tagli di spese fossero necessari per accumulare questi soldi, senza appunto affrontare un problema, quella della manovra aggiuntiva, che getterebbe il paese in un'ulteriore situazione di crisi, di recessione, di politica fiscale, di austerità, e di queste cose il paese mi sembra che ne abbia avute già abbastanza. Allora, sì, non è rassicurante nemmeno quello che ci ha detto lei, perché appunto i numeri rischiano di essere più alti, e si capisce perché il ministro Fornero dica anche se trovassimo i soldi potrebbero non bastare, perché la crisi è peggiorata, se ho ben capito il suo ragionamento della Ringa, e l'abbiamo visto in tutti i numeri possibili, da metà del 2012 in poi, e quindi anche la disoccupazione più forte si è avuta negli ultimi tre mesi del 2012, con una coda non da poco nel 2013. Seguiremo il tema, perché manca solo che rovinare, diciamo, già la vita è rovinata quando sei in cassa integrazione in deroga, manca solo che tu non abbia nemmeno i soldi per mantenerti durante l'estate. Grazie al professor Carlo Del Ringa. Un altro dei motivi per cui prima la politica si sveglia meglio è, ma non è compito di questo programma parlarne. Noi invece ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata con questo inizio di primavera. Speriamo non sia una rondine. A domani. Radio 24, la passione si sente.